con l'autrice e attrice Teresa Cinque per parlare del suo spettacolo Errori di base a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, il prossimo 26 ottobre. Teresa, ben trovata. Descrivici Ciao, ciao, ciao a te e a tutti. questo tuo lavoro. Sì, allora, lo spettacolo è fatto di monologhi, quindi sono una serie di brani che io leggo, recito più o meno, insomma, si chiama reading, però è tra il reading e la recitazione teatrale, diciamo, e sono tutti monologhi che più o meno ruotano intorno a riflessioni sulla condizione femminile e anche sui rapporti di coppia, con un taglio ironico e anche piuttosto autocritico, diciamo. Lo spettacolo prende il titolo infatti da uno di questi monologhi, che è quello forse che ha ricevuto, anzi certamente che ha ricevuto più riscontro sul web, che si chiama L'errore di base. Infatti lo spettacolo si chiama Errori di base. Com'è partito tutto? È partito tutto con questo monologo qui, o meglio, io i monologhi avevo iniziato a scriverli già prima, frequento un laboratorio teatrale a Firenze, quindi insomma era già un po' che mi allenavo per questo sport. Poi ho cominciato a scrivere dei monologhi e questo qui, ho anche iniziato, oltre che scriverli, a riprendermi proprio con l'iPhone in maniera assolutamente brutale, senza neanche montaggio né nulla, e a mandarli a un circolo ristretto di amiche, così per avere un feedback. Uno di questi, appunto l'errore di base, è stato mandato da un'amica a un'altra amica, a un'altra amica, a un'altra amica. Alla fine di questa catena una sconosciuta l'ha pubblicato su Asponte senza neanche chiedermi il permesso, però direi che non mi ha fatto assolutamente un danno, perché è partito insomma tutta una serie di condivisioni e di visualizzazioni. Ora siamo a 7 milioni, quindi attraverso, diciamo, questo suo gesto ha rotto il ghiaccio, e dopo io ho continuato a pubblicare sul web altri video, sempre fatti così con grande semplicità, dei monologhi, e poi anche a portare, parallelamente avevo iniziato anche a portarli in teatro, no? Facendo prima qualche monologo insieme ad altri attori che facevano altri pezzi loro, e poi alla fine ho messo insieme questo spettacolo mio, tutto fatto di pezzi miei, e vado con quello. La tua principale fonte di ispirazione cos'è? La cronaca? Ma no, in realtà sono più le chiacchiere e le confidenze con le amiche, con le donne con le quali ho molti rapporti anche intensi e profondi, e poi le riflessioni mie, insomma, direi che un po' i vuoti che riesco a creare nel mio quotidiano, dai quali risalgono delle cose che nel frattempo uno ha esperito, ha assorbito nella vita, e un po' anche il confronto con le altre. Perché noi donne parliamo molto, insomma, delle cose, dei rapporti, di come ci sentiamo, e quindi poi io ritiro fuori delle robe che in parte sono mie, ma in parte sono anche di altre, dico la verità, rubo. Quali sono le questioni più centrali? Come ti dicevo, guarda, un pochino i rapporti di coppia, insomma le idiosincrasie che ci sono tra le lamentele delle donne verso gli uomini, però cercando di leggerle magari in una chiave anche, appunto, come ti dicevo, autocritica, ironica, no? Vedere dov'è che sono invece i nostri di base, per cui non ci intendiamo a volte con l'altra metà del cielo, come si dice. E un po' anche delle riflessioni più generali sulla condizione della donna adesso, ma proprio anche partendo da cose semplici come l'abbigliamento, certe pazzie che facciamo e che ci sembrano normali, no? Che ci imbrigliano parecchio, insomma, per esempio l'ossessione per la bellezza, per il nostro aspetto, per le nostre immagini. Questo è un tema che io ci torno spesso, perché io sono la prima vittima di questa roba, eh? Non è che ne parlo perché così dall'alto giudico quelle che. No, no, io essendo la prima intrappolata in questa gabbia, allora provo a liberarmene facendoci sopra dell'ironia, buttando fuori il peggio anche, se vuoi. Andando alla base di tutte queste visualizzazioni internet, anche ai commenti che hai ricevuto, quali sono le cose su cui, si riconoscono di più? Ma io vedo che, allora, tante donne mi scrivono ringraziandomi perché, per esempio, nell'errore di base parlo di come spesso noi tendiamo magari a cercare di far funzionare una relazione partendo da quello che abbiamo fatto o che non abbiamo fatto, quindi cercando in tutti i modi di correggere il stile, facendoci tanti, anche troppi problemi, quando invece se una cosa funziona, se non funziona, ma lasciamo anche stare, no? Ecco, questo per esempio è una delle cose che mi ha fruttato stranamente più gratitudine. Proprio io ricevo tantissimi messaggi di donne che mi dicono grazie, non so, ho hai raccontato la mia storia oppure no, mi hai liberato, mi hai fatto sentire. Naturalmente si vede che delle cose che sono successe a me sono successe anche ad altre, però sembrava che fossero proprio pronte a condividere questa roba, no? Quindi, insomma, io sono molto contenta di questa cosa, anche perché si è creata una specie di rete. Quindi succede proprio quello che io auspico, cioè che fra donne si crei una rete più di solidarietà e si spezzi possibilmente quella della rivalità, dell'antagonismo, che invece ci fa tanto male. Dove li stai portando i tuoi monologhi? Adesso, appunto, come dicevi, a Roma c'è questa data importante a cui tengo molto perché appunto è la Casa Internazionale delle Donne, quindi per me insomma è anche una sede simbolica. Poi ce ne sarà un secondo sempre a Roma, al Caffè Letterario di Via Ostiense. Poi dopo abbiamo un programma a Genova, Torino, Milano. Io ho un po' di richieste in giro, quindi è questione di organizzarmi e vedere. Diciamo che sto andando un pochino nelle città del centro-nord Italia, visto che io sono toscana, poi magari mi spingo anche più in là, a me, cioè, non mi pare il vero, però è una cosa che si sta, diciamo, costruendo su se stessa. Ci lasci tutti i riferimenti web per seguirti? Ma sì, è molto semplice perché dunque io ho un profilo Facebook sul quale sono piuttosto attiva e dove pubblico questi video monologhi, e quello è Teresa 5, cioè il mio nome. E poi c'ho anche un canale YouTube e anche quello si trova cliccando il mio nome Teresa 5. Niente di più facile. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne il prossimo 26 ottobre con Errori di base di e con Teresa 5. Teresa, è stato un piacere, un Anche per abbraccio me, e a anche a me. risentirci presto. A presto, grazie mille. Ciao, arrivederci.